E questo era un estratto di un quarto d'ora circa dalla Donna Perfetta con Mariella Losardo, che abbiamo in collegamento telefonico. Mariella, intanto brava e poi... Grazie, ciao a tutti. Benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Allora, purtroppo è andato già in scena qui a Roma questo fine settimana al Teatro Argo Studio nell'ambito di Scena Sensibile. Ti chiedo subito com'è andata. È andata molto bene, grazie. Abbiamo raggiunto insomma degli obiettivi, perché poi sai, la rassegna è una promozione, a noi ci interessa poi distribuirlo lo spettacolo e diciamo degli obiettivi sono stati raggiunti, si va passo per passo. Senti, i testi di riferimento sono un paio, se non sbaglio. Sì, sono Jean Cocteau, La voce umana, che insomma è molto noto, è questo racconto in prima persona di Dorothy Parker, scritto per coincidenza nello stesso anno, nel 30. Tutte e due trattano di una donna sola nella sua tana, e tutte e due una donna alle prese col telefono, una col telefono con lo squilla e l'altra alle prese con una conversazione telefonica con un uomo. Un taglio anche comico per certi versi. Beh, dunque noi abbiamo cercato di rendere il personaggio più moderno possibile. Sì. Questo tipo di donna è un tipo di donna che è sempre esistito, una donna che non vuole crescere, una donna che si definisce solamente in virtù della presenza dell'uomo e ragiona solamente in termini di che cosa possa piacere o dispiacere a un uomo. Sì. E quindi è una donna che non cresce, una donna che non ha un senso di se stessa, è una donna che senza questo appiglio, in questo caso l'uomo è il telefono in un certo senso, senza questo appiglio non può vivere, ecco perché non può mollare, perché sennò morirebbe. Senti, più in generale, l'attività della vostra compagnia? Dunque la compagnia è siciliana, sì. Il regista è Vincenzo Tripodo, il produttore è Gigi Spedale. Abbiamo fatto questo e pochi altri prodotti fino adesso, questo è il primo che intendiamo proprio portare in giro. Sì. Le musiche sono di Ralph Towner, che penso che i cultori del jazz conoscono abbastanza, e come dicevano molti, la musica diventa quasi un personaggio perché è molto presente. Sì, sì. Senti, ci sono dei vostri riferimenti internet per chi volesse conoscere in modo più puntuale la vostra attività? Dunque, una cosa importante per chiunque si sia un minimo incuriosito è di digitare La donna perfetta Mariella Losardo su YouTube. Okay. E si imbatterà in questo trailer che darà diciamo un minimo di accompagnamento visivo a questo audio che voi avete sentito. E ci sono anche già vostre altre date in programma? No, però c'è un lavoro di distribuzione cominciato. Bene. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci. Grazie. Magari per le prossime volte qui in Senz'altro. Radio Rossa. Va bene, grazie tante. Ciao Mariella. Ciao, ciao, ciao. Ciao.